buonasera, benvenuti a Smart City. Settimana scorsa a Lampedusa è stato attivato il primo impianto fotovoltaico dell'isola, 40 kW di potenza sul tetto del municipio. È una storia travagliata quella dell'impianto di Lampedusa. Un'autorizzazione arrivata in ritardo da parte della sovrintendenza ai beni culturali ha fatto perdere il finanziamento ministeriale assegnato appunto all'isola, ma il progetto è stato recuperato grazie a un crowdfunding lanciato da Greenpeace, a cui ha contribuito anche la fondazione taiwanese Casa di Love, che si occupa del tema dei rifugiati. L'inaugurazione dell'impianto è stata anche un'occasione per discutere del tema energetico nelle isole minori, e all'evento era presente anche Gianni Silvestrini, uno dei padri dell'ambientalismo italiano, che nella veste di presidente di Exalto, società con sede a Palermo che si occupa di strategie energetiche, ha anche contribuito a disegnare un piano energetico per l'isola. Ne abbiamo parlato, ecco com'è andata. Gianni Silvestrini, perché le isole sono dei luoghi ideali per sperimentare, diciamo così, un nuovo modello energetico, quello basato sulle rinnovabili? Beh, le piccole isole in Italia, nel Mediterraneo, in giro per il mondo, normalmente hanno un sistema energetico assolutamente obsoleto, sono dei dinosauri del modello energetico del secolo scorso, eppure hanno grandissime potenzialità, perché quasi tutte hanno sole, vento, alcune hanno anche geotermia e biomassa, e quindi hanno tutte le caratteristiche per poter passare da un sistema basato sui combustibili fossili a un sistema centralmente basato sulle fonti rinnovabili. Questo anche perché la produzione di energia nelle piccole isole, siccome avviene appunto col gasolio quasi sempre, è anche molto costosa, quindi conviene anche economicamente, al di là delle potenzialità ambientali, diciamo. Assolutamente, è molto costosa, e questa è anche la ragione per cui è possibile pensare a una transizione verso le rinnovabili che sia anche più economica per in generale la collettività, che in questo momento per esempio in Italia paga con una addizionale la produzione elettrica nelle isole minori, e con la drastica riduzione dei prezzi del fotovoltaico, degli accumuli, dell'eolico, è possibile pensare a un percorso che progressivamente vada dal niente come adesso al 10, 20, 30 fino ad arrivare al 100% di rinnovabili. Quale può essere un mix energetico per un'isola come Lampedusa? Quali gli ingredienti? Allora, questo è un tema molto interessante, perché bisogna fare i conti da un lato su quelle che sono le potenzialità delle fonti energetiche rinnovabili in una determinata isola. Per esempio a Lampedusa si può considerare l'uso del solare in prima battuta e poi dell'eolico, ma non basta considerare il potenziale, bisogna vedere anche che cosa si può effettivamente fare, tenendo conto dei vincoli che vengono posti dalle sovrintendenze, dai piani paesaggistici. Per esempio, oggi grandi pali eoliche è un problema, no? Oggi non si può fare niente, non solo grandi pali, neanche piccole, neanche micro, neanche un impianto fotovoltaico di una certa dimensione, se non attraverso procedure estremamente complesse, che sono quelle che hanno fatto perdere il finanziamento al Comune di Lampedusa, che poi è stato recuperato con l'azione di crowdfunding di Greenpeace e dei taiwanesi. Quindi la novità però interessante è che sta per uscire un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che indica degli obiettivi per le isole minori italiane di progressiva introduzione di quote di fonti rinnovabili e di sistemi di efficienza energetica, di riduzione dei consumi. Questo sblocca la situazione, e in effetti abbiamo visto che i produttori locali hanno adesso un atteggiamento molto positivo rispetto, sì. Si tratta adesso di fare l'altro passaggio, e cioè di discutere con le sovrintendenze, con il Ministero che si occupa dei beni culturali, per trovare un equilibrio tra difesa della natura e la possibilità di generare energia pulita. E credo che questo equilibrio si troverà, e quindi partirà questa avventura delle piccole isole, che non riguarda solamente l'energia, riguarda anche la mobilità, perché le piccole isole possono essere in piccolo un laboratorio di una smart city, una smart community, in cui si riesce non solo a generare energia in maniera pulita ed accumularla, ma si riesce appunto a far funzionare la mobilità con sistemi elettrici, si chiude il ciclo dei rifiuti, si produce l'acqua con l'energia solare dal mare e così via. Allora, intanto dal punto di vista economico, diciamo così, i soldi per fare questo lavoro già ci sono. Esattamente, noi in questo momento paghiamo una quota in bolletta con una voce che si chiama UC4, e quindi questi soldi che servivano per pagare il delta costo tra il prezzo del kilowattora in un'isola rispetto alla media nazionale, adesso servirà invece per far decollare le rinnovabili. Quindi non avremo un aggravio di costo nella bolletta, anzi poi a regime questo delta costerà ancora meno per le ragioni che abbiamo già detto. C'è più bisogno. bisogno. Un altro aspetto, e chiudiamo, è questo dei rifiuti, perché per esempio qui a Lampedusa i rifiuti vengono presi, imballati e spediti tutti in Sicilia, compresa la frazione organica, e tra l'altro siamo in una terra povera dal punto di vista proprio del contenuto organico del terreno, no? Sì, questa è l'assurdità delle isole. Nelle isole spesso l'acqua, in molte isole l'acqua arriva con le navi, i rifiuti con le navi partono e vanno verso la Sicilia in questo caso, ed è una vera e propria assurdità, perché si può assolutamente innescare un meccanismo virtuoso, per esempio nel caso del rifiuto organico, fare un'azione di compostaggio e quindi avere materiale organico che serve per l'agricoltura e comunque arricchire l'humus dell'isola. Si può fare poi biogas e quindi avere anche energia pulita dai rifiuti organici, e quindi anche questo è un altro pezzo di questa visione circolare dell'economia che proprio nelle piccole isole può avere una perfetta chiusura, perché è più facile da fare che da altre parti. Ancora grazie a Gianni Silvestrini, ci salutiamo, ci diamo appuntamento come sempre a domani, buona serata.